Nella storia del popolo di Israele mi ha sempre affascinato la persona del re Davide, soprattutto per quello che è stato in grado di compiere. È vero che suo figlio Salomone ha costruito un tempio che non aveva eguali, ma l'opera è stata realizzata grazie al lavoro di preparazione fatto da Davide sia militarmente che economicamente. La domanda che sorge spontanea è come ha fatto Davide a raggiungere una prosperità militare ed economica così grande? Qual è stato il segreto di Davide, ammesso che ne esiste uno, per i suoi successi? Leggendo la descrizione degli avvenimenti della vita di Davide, balza all'occhio che il segreto dei successi di Davide è stato un semplice comportamento che dovrebbe caratterizzare ogni persona impegnata in un'opera sia sociale sia nel campo di Dio, cioè la collaborazione. Sembra incredibile, ma non tutti coloro che portano avanti un'opera sono in grado di accettare una collaborazione e, anche se non sempre tutti i motivi sono individuabili, alcuni però sono generalmente presenti. Il primo fattore è l'individualismo, kos. È l'individualismo e quell'atteggiamento o filosofia dove i propri diritti prevalgono sugli altri. Eppure il credente, con la nuova nascita, viene a trovarsi in una nuova famiglia e non può che vivere la propria identità di cristiano in seno ad essa. Una cosa che non tutti hanno compreso, meno mano, o forse non tutti hanno accettato meno, è che un cristiano non può fare a meno degli altri fratelli. Non si può lavorare individualmente. Lo psicologo Paul Tournier disse che l'individualismo è il pericolo numero uno di una comunità e della collaborazione. Perciò ogni persona dovrebbe guardarsi da questo virus, anche perché vivere da individualisti non è condursi in modo degno dell'Evangelo. In effetti, Cristo Gesù è venuto per riunire i figli di Dio dispersi, e non perché ognuno si comporti come se fosse solo. Qualsiasi idea cristiana basata sulla Bibbia si abbia, pienamente convinti che venga da Dio, se essa non conduce all'unione dei cristiani, deve essere un richiamo a rivedere il proprio comportamento. Vivere da individualisti nella comunità cristiana è come vivere la vita matrimoniale da scapoli. In effetti, poche coppie vivono da sposati, come non sono molti i credenti che sanno avere una vita di collaborazione. Ho maturato, in tanti anni di esperienza, la convinzione che per certi credenti la Chiesa è una realtà, loro sono un'altra realtà staccata. Il fatto che la Chiesa vada bene o male non li tocca più di tanto. Se la Chiesa è spirituale o carnale, se sta andando bene o male, non si sentono coinvolti. Questo è individualismo. Questo spirito si può cogliere in certe preghiere come «Signore, benedici questa Chiesa». Come se la chiesa che frequentano non fosse quella alla quale appartengono. Preso atto dell'atteggiamento deleterio dell'individualismo, prendiamo in esame come ha vissuto Davide. Il re Davide aveva espresso all'Eterno il desiderio di costruirgli una casa di adorazione, ma ricevette un netto rifiuto, con la promessa che la casa l'avrebbe costruita uno dei suoi figli. Davide non si offese del rifiuto. Anzi, collaborò prima ancora che Salomone diventasse re. Davide disse: «Questa è la casa dell'Eterno Dio, e questo è l'altare degli olocausti per Israele». Allora Davide ordinò di radunare gli stranieri che erano nel paese di Israele e diede incarico agli scalpellini di squadrare pietre per costruire la casa di Dio. Davide preparò pure ferro in abbondanza per i chiodi dei battenti delle porte e per i ganci, una quantità di bronzo di peso incalcolabile e legno di cedro da non potersi contare, perché i Sidoni e i Tiri avevano portato a Davide legno di cedro in abbondanza. Davide diceva: «Salomone, mio figlio, è giovane e inesperto, e la casa che si deve costruire all'Eterno sarà estremamente magnifica e acquisterà fama e gloria in tutti i paesi. Farò quindi i preparativi per essa». Così Davide, prima di morire, fece ingenti preparativi. 1 Cronache 22.15. Collaborare significa anche aiutare altri ad adempiere i loro progetti e non mettere impegno solo nelle proprie visioni. L'ordine che troviamo nel Nuovo Testamento di occuparci non solo delle nostre faccende, Filippesi 2.4, e quello di stimare gli altri più di noi stessi, Filippesi 2.3, hanno proprio questo principio. Non pensare solo a ciò che può tornare a nostro vantaggio, ma interessarsi anche degli altri, affinché i loro giusti progetti possano adempirsi. Questo principio può essere applicato donando del denaro per opere sociali o per il regno di Dio, donando del proprio tempo o mettendo a disposizione i propri beni. Lavorare perché i propri progetti vadano in porto è buono, ma se trascuriamo i progetti degli altri, è possibile cadere in un edonismo cristiano non salutare. Se ammettiamo che nel profondo della nostra natura siamo egoisti e sempre inclini a pensare solo a noi stessi, è molto salutare interessarsi perché altri ottengano successo nel campo di Dio. Ottenere degli ottimi risultati con i relativi complimenti fa sempre piacere, ma per un cristiano dovrebbe essere un sommo piacere vedere altri credenti riuscire nelle loro imprese e vederli sommamente stimati. Questo aspetto è preso poco in considerazione, ma è indispensabile per chi desidera avere il giusto spirito di collaborazione. Nel primo libro delle Cronache, 12.2232, troviamo degli elementi in merito alla collaborazione da prendere in seria considerazione. Vengono elencati il numero dei capi armati per la guerra, che si recarono da Davide a Hebron per trasferire a lui il regno di Saul, secondo la parola dell'Eterno. Tra questi capi, leggiamo un particolare riguardante i figli di Issacar. Dei figli di Issacar che avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare, 200 capi e tutti i loro fratelli e i loro ordini. Dunque, il re Davide, benché fosse un uomo al quale l'Eterno parlava direttamente, aveva tra le fila dei suoi soldati uomini che sapevano come dovevano comportarsi e qual era la cosa giusta da fare al momento giusto. Questo, in qualsiasi lavoro, è un fattore indispensabile. Una vera collaborazione consiste nell'avere buone orecchie e buoni occhi per individuare chi sta dicendo la cosa giusta al momento giusto. Dato che nessuno è in grado di conoscere tutto, dato che nessuno è sempre all'altezza della situazione, anche pur avendo tutti i carismi, va da sé che chi ha il compito di guida deve avere anche la saggezza di cogliere le giuste opinioni. Anzi, chi guida deve ritenere sempre e in ogni occasione di aver bisogno degli altri per migliorare i propri progetti, altrimenti egli non realizza la vera e giusta collaborazione che deve esistere in seno a un gruppo di persone. Anche al capitolo 27 del primo libro delle Cronache, 1.15, abbiamo un altro resoconto, ma questa volta concernente le milizie del regno. Davide mantenne un costante forza militare, ma sostituiva i soldati ogni mese, e in questo modo il re aveva 12 divisioni militari sempre addestrate e abituate alla vita militare. Ciascuna divisione aveva il suo comandante in capo, e al di sopra dei vari ufficiali, subalterni a capo di migliaia, di centinaia e cinquantine, c'era un generale per ogni divisione o legione. Questo modo di procedere è molto saggio e deve essere tenuto in considerazione da chi ha il compito di governare un'opera. Non è saggio per un leader occuparsi di tutto, essere presente ovunque e essere il solo a decidere di ogni cosa, perché si logorerà prima del tempo. Inoltre, non gli sarà possibile essere né competente né presente in ogni situazione. Una vera collaborazione esiste quando chi comanda affida ad altri dei compiti e lascia completamente nelle mani altrui l'andamento delle cose. Da tenere presente che i 12 comandanti sono menzionati fra gli uomini prodi e valorosi del re Davide, e questo ci insegna che chi governa deve cercare la collaborazione da chi si è già dimostrato in grado di svolgere un certo compito. Il re Davide era un grande soldato, ma anche un valente amministratore delle sue proprietà, secondo la descrizione in 1 Cronache 27.2.5.34. Gli amministratori dei beni del re avevano la sovrintendenza e la cura dei campi, vigneti, uliveti, bestiame, cammelli, asini e greggi. Il re Davide non si interessava personalmente dei suoi beni, ma tutto era affidato ad altri. Così chi governa un'opera Se vuole una vera collaborazione deve affidare ad altri compiti più o meno minori senza interferire nelle loro decisioni. Quello che viene richiesto agli amministratori è che tutto proceda nel migliore dei modi e ci sia un ottimo risultato, poi essi hanno anche libertà di agire come credono meglio. Non esiste vera collaborazione se ogni operaio non è libero di agire come meglio crede. Forse una delle migliori dimostrazioni di cooperazione la troviamo nell'episodio del trasferimento dell'arca. Così leggiamo in 1 Cronache 13. 1-4 Davide tenne consiglio con i capi di migliaia e di centinaia, e con tutti i principi. Poi Davide disse a tutta l'assemblea di Israele: se sembra bene, e se è da parte dell'Eterno, il nostro Dio, mandiamo a dire ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele, e con loro anche ai sacerdoti e ai leviti nelle loro città e terreni da pascolo, di radunarsi presso di noi, e riportiamo da noi l'arca del nostro Dio, perché non l'abbiamo ricercata ai tempi di Saul. Tutta l'assemblea consentì a fare così, perché la cosa parve giusta agli occhi di tutto il popolo. Davide era un re, e come tale poteva decidere a proprio piacimento anche senza chiedere il parere dei suoi sudditi. Ma la grandezza di Davide sta proprio in questo. Egli cerca sempre la partecipazione altrui in tutto ciò che fa. Poteva benissimo decidere di trasportare l'arca, ma chiese il parere di tutti affinché si potesse compiere un gesto di comune accordo. Chi è alla guida di un'opera non deve temere il parere o i consigli degli altri, ma deve soprattutto cercarli perché tutto venga fatto in collaborazione. I principi di collaborazione furono in seguito adottati anche dal figlio di Davide, Salomone, che distribuì saggiamente i compiti dei suoi ufficiali di Stato e degli intendenti della sua casa. 1 Re 4.7 e 25.28, 5.1318, in modo che tutti potessero svolgere i loro compiti. In definitiva, il piano di Dio per chi governa non è quello del tutto fare, ma di cercare l'aiuto altrui, dando ad ognuno a seconda delle capacità i giusti compiti e lasciando ad ognuno la responsabilità del proprio lavoro. La collaborazione presume che chi comanda e chi ubbidisce abbiano le stesse responsabilità, anche se i ruoli sono diversi. Senza questo principio non vi è collaborazione. Dicembre 2006. Ellero.